America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24. Buona Pasquetta a tutti. E visto che siamo così in atmosfera post-pasquale, vorrei restare sul tema che ho discusso venerdì, cioè su un tema culturale nel senso più lato del termine, cioè sul tema non profit, su come si possono mettere insieme delle risorse private per poter fare del bene. Venerdì vi avevo raccontato di Butch Cassidy e The Sundance Kid, che aveva ispirato Paul Newman a creare questa fondazione The Hole in the Wall per bambini malati con malattie patologiche, per dare loro la possibilità di andare in dei camp. Fra i vari camp americani e internazionali ce n'è anche uno in Italia, si chiama Dinamo, e in Toscana ha una storia molto particolare, conferma che le attività filantropiche in Italia possono avere successo anche nelle situazioni attuali. Certo, vorremmo avere maggiori riduzioni fiscali, maggiore pubblicizzazione, maggiore partecipazione soprattutto. Bene, il Dinamo Camp è stato fondato, lanciato, costituito da Enzo Manes, che è un imprenditore italiano, guida la KME, che è una delle più importanti aziende del mondo per la lavorazione e la produzione del rame, e legato direttamente a The Hole in the Wall, oppure Serious Fan, che è il nuovo nome di questa organizzazione lanciata da Paul Newman, ed è con noi qui ai microfoni di America 24. Buongiorno Manes. Buongiorno a voi tutti. Dunque, lei intanto come ha cominciato, come le è venuta l'idea di costituire un camp di questo genere in Italia? Ma per caso, perché mi interessavo di venture philanthropy da un po' di anni. Poi nel 2003, quasi per caso, a una cena ho conosciuto un signore, mi ha raccontato la sua esperienza di suo figlio che aveva avuto questo cancro, credo, al ginocchio, ed era stato ospite in uno dei camp di Paul Newman, quello in Connecticut. Questa sua esperienza di questo ragazzo era uscita molto positivamente. Il ragazzo fortunatamente aveva recuperato dalla sua malattia ed era ritornato a fare il counselor in questo camp. E così questa storia mi ha profondamente così interessato, e da lì sono partito. Fisicamente, il camp in Toscana come nasce? Cioè, qual è la creatività sua da imprenditore che ha trovato lo spazio e il modo di farlo? Noi come azienda avevamo questa proprietà di cui precedentemente c'era una fabbrica sottostante ed era abbandonata, e devo dire che nasce dall'idea di rivitalizzare questa cosa che noi avevamo lì. E lì abbiamo rimesso a posto una serie di capannoni industriali che sono diventate le cabine per i ragazzi, abbiamo costruito la dining hall, abbiamo costruito il teatro, ricostruito la parte dei cavalli, e poi siamo dentro questo, diciamo, setting fantastico che è un'oasi del naturale del WWF, perché il campo base sotto occupa circa 30 ettari, ma il tutto è dentro un'oasi naturale del WWF, affiliata al WWF, di 1200 ettari, quindi questa cosa abbastanza particolare. Strana e molto importante, una cosa realizzata in quasi meno di un anno. Ecco, c'è un problema di sostenibilità, c'è un problema di trattamento fiscale. Dal suo punto di vista, dove siamo in Italia rispetto agli Stati Uniti? Perché lei in fondo rappresenta quella che è una struttura filantropica americana. Quello che è sempre considerato il motivo prevalente della forza della filantropia americana, cioè la deduzione fiscale, è sicuramente un motivo che serve, aiuta, ma non è quello che fa la differenza. La fa questo diverso approccio. Il nostro approccio al sociale è un approccio che è stato nella nostra tradizione storica culturale, un approccio di tipo governativo della chiesa, un approccio di tipo delle cooperative sociali, eccetera. In America invece è un approccio di tipo diverso, un approccio di tipo di community imprenditoriali. Beh, però c'è un approccio che funziona e un approccio che non funziona. Io qua in America vedo filantropia che funziona, in Italia vedo filantropia soprattutto privata che non funziona. Ecco, secondo lei c'è la necessità, l'esigenza di allargare un pochettino questo campo privato? Ma prima di tutto, ecco, sul fatto che non funzioni la filantropia privata, secondo me non è così, cioè funziona, non, nel senso, non ce n'è tanta, non che non funziona, ma quella che c'è funziona molto bene, ci sono degli esempi bellissimi, bisogna semplicemente la voglia di copiare altri. Fondamentalmente io credo che questa sia un esempio positivi che poi creano questo snowball, questo effetto di valanga, spero, per altri esempi positivi come questo. Ecco, venendo proprio anche all'esperienza pratica, emotiva del vostro camp, mi ha colpito vedendo un filmato proprio nel contesto di queste celebrazioni americane, dove poi si è parlato anche del camp italiano, quindi devo dire c'era anche una punta d'orgoglio di vedere che in un evento americano di altissimo livello c'era poi anche un'esperienza italiana portata come esempio, il vedere dei ragazzi Down Syndrome che erano andati al camp per aiutare i bambini malati di cancro. Ecco, devo dire, è una storia da libro cuore, ma com'è nata questa idea? Qual è questa storia? E noi un giorno credo siamo stati chiamati da un'associazione che esiste in Italia da tempo, che si chiama Il Mulino, che si occupa appunto di ragazzi down, e questi ragazzi down fanno varie operazioni di questo tipo di volontariato in giro, e sono dei ragazzi straordinari. Il futuro, la sostenibilità, i progetti. Adesso comincia, diciamo, l'età della ragione, post i 5 anni comincia l'età di come questa cosa deve essere nel tempo sostenibile, perché credo che, diciamo, il vero successo di un'iniziativa come questa è far sì che rimangano, al di là di chi l'ha creata, al di là di chi l'ha gestita, di chi l'ha fatta partire, rimangano nel tempo e siano solide nel tempo. Ecco, un consiglio al governo Monti per far sì che quelli che sono dei casi isolati in Italia diventino dei casi diffusi. Ecco, un modo in cui Monti può aiutare, Monti o chi per esso, è che far passare nella testa della gente, degli italiani, il concetto che è un po' un concetto americano, cioè quello di non fermarsi nel percorso, io dico sempre, nel percorso ideale che va da casa al lavoro, e noi siamo fortissimi in questi due centri, diciamo, nella nostra casa, nella nostra famiglia e nel nostro lavoro. Poi c'è un percorso ideale quando uno esce da casa e va al lavoro, che è quello che fa, che invece riguarda tutti. Ecco, io credo che in quel percorso ideale che riguarda tutti, forse la cosa più importante è far sì che ognuno ne faccia di quel percorso ideale, ognuno se ne faccia un pezzettino proprio. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguitemi su Twitter, @MarioPlatero, scriveteci su Facebook. Ed eccoci alla canzone del giorno. Restando in tema di filantropia, la Carnegie Hall, sempre qui a New York, si è tenuto un concerto per raccolta di fondi per salvare la foresta pluviale. Grandi nomi come Elton John, James Taylor, Bruno Mars. Dunque, vista la giornata, una giornata pasquale di amicizia, di fratellanza, vi propongo di James Taylor un grande classico, You've Got a Friend. You've got a friend. You've got a friend, yeah. Ain't it good to know you've got a friend? Ain't it good to know you've got a friend? Oh yeah, yeah, you've got a friend. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going. America 24.